Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La mancanza di una politica di flussi e dell'immigrazione controllata ci sta mettendo nuovamente tutti in pericolo. Siccome stiamo uscendo da questa situazione di emergenza e non sapete come mantenere la poltrona, allora importate il Covid. Questa, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è l'accusa che Elena Murelli della Lega oggi alla Camera ha lanciato al governo, cioè dice: per tenervi le poltrone voi importate il Covid con i migranti. Lo ha fatto alla Camera nel giorno dell'istituzione, cioè il voto per l'istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, e quindi ha attaccato il governo accusandolo di non avere un piano. Di questo e di molte altre cose parleremo con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa. Tra l'altro, a proposito di coronavirus da importazione, oggi il ministro della salute nel pomeriggio, Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui rende obbligatoria la quarantena a persone che rientrano dalla Romania e dalla Bulgaria. Poi spiegheremo anche perché. Ma ci sono molte altre cose di questa puntata, come gli sviluppi dell'inchiesta, clamorosa inchiesta sulla caserma di Piacenza, e poi l'annuncio del ministro Spadafora, ministro dello sport, che dice che da settembre, se tutto va bene, se ovviamente non ci sono ricadute o nuove ondate, gli stadi saranno riaperti ai tifosi. 349-238-6666 è il numero per i vostri commenti via WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Sto per partire con questa che è l'ultima puntata della stagione di Effetto Notte. Poi da lunedì inizia la versione estiva, che andrà in onda dalle 18.30 alle 20.30 con un collega che poi sentiremo. Allora, adesso non poniamo altro tempo in mezzo, partiamo, allacciatevi le cinture. I dati sul coronavirus in Italia riscendono: da 306 a 252 i nuovi casi nel nostro paese, calano da 10 a 5 anche i morti. E il ministro della Salute, Roberto Speranza, firma l'ordinanza che obbliga alla quarantena chi rientra in Italia da Romania e Bulgaria, dopo 3 casi di positivi da quei paesi, tra cui 2 badanti. Per parlarne sarà ospite la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa. L'inchiesta sulla caserma di Piacenza, oggi i primi interrogatori. L'omicidio di 19 anni fa di Serena Mollicone, a giudizio i 3 carabinieri della caserma di Arce, prima udienza a gennaio. Mafia e 'ndrangheta alleate nella stagione delle stragi, ergastolo per i boss. Vacanze anche quest'anno, sarà esodo bollino nero l'8 agosto. Sport, l'annuncio del ministro Spadafora: da settembre riapriamo gli stadi ai tifosi. Partiamo quindi, come sempre, dalla situazione relativa al coronavirus nel nostro paese. Sono 252 i nuovi pazienti positivi al coronavirus, in calo dopo 2 giorni di crescita. E quanto emerge dal bollettino odierno pubblicato dal Ministero della Salute, secondo cui sono tornati a scendere anche gli attualmente positivi al coronavirus, e i nuovi decessi sono 5, mentre ieri erano stati 10, per un totale dall'inizio della pandemia in Italia di 35.097 decessi. E una nuova ordinanza prevede l'obbligo di quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria. In calo in Italia nelle ultime 24 ore sia contagi che vittime, che sono 5, la metà rispetto a ieri. 252 i nuovi casi, ieri 306, 53 dei quali in Lombardia, che non ha registrato decessi. Dei 18 nuovi contagi in Lazio, 9 sono del cluster bengalese, ma dopo le 2 badanti rumene rientrate in autobus a Roma e risultate positive, si monitorano anche gli eventuali casi importati dalla Romania, che è tra i paesi balcanici più colpiti dalla pandemia. Per questo ora chi arriva da Romania e Bulgaria dovrà rispettare la quarantena, lo impone un'ordinanza firmata nel pomeriggio dal ministro della Salute Speranza. Intanto dalle isole scatta l'allarme. Il sindaco di Ponza chiede interventi, denunciando il 50% in più di presenze a causa del turismo di prossimità e l'impossibilità di rispettare il distanziamento sociale. Guardando all'Europa, il Belgio purtroppo registra la sua vittima di Covid più giovane, una bimba di 3 anni. Intanto la Russia, che ha superato gli 800.000 casi, fa sapere che riprenderà il traffico internazionale dal 1 agosto. I primi voli saranno verso Gran Bretagna, Tanzania e Turchia. Dall'altra parte del mondo è piena emergenza in America Latina, che ha superato i 4 milioni di casi e subito sinora 176.000 vittime, tra queste la metà in Brasile, ma anche l'Argentina registra un nuovo record di casi, oltre 6.100 per il secondo giorno, la supera il Messico, dove i nuovi contagi sono stati quasi 8.500. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di questo vi dicevo parleremo con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa. Intanto questa un'estate che comunque sta prendendo il via nonostante l'emergenza, sarà l'8 agosto la giornata più gettonata per le partenze. C'è anche chi si lamenta per i troppi arrivi. Dopo Capri è allarme movida anche a Ponza. Per effetto del turismo di prossimità abbiamo un 50% di presenze in più rispetto all'anno scorso, spiega il sindaco Francesco Ferraiuolo. Le nostre strade hanno spazi ristretti, diciamo che questo in qualche modo induce a degli assembramenti anche inavvertitamente. Chiediamo anche il supporto di altre forze dell'ordine, in tal senso ho scritto anche al questore di darci un aiuto. Stessa richiesta qualche giorno fa dal sindaco di Capri e nelle ultime ore anche dai residenti di Fregene sulla costa laziale. Lamentano assembramenti selvaggi, risse e atti vandalici. Nell'estate delle seconde case e dei timori per i viaggi all'estero, gli accorgimenti anti-Covid intanto fanno lievitare i prezzi degli stabilimenti balneari. Più 12% in media per l'abbonamento giornaliero secondo Altro Consumo, con punte del 32% nella penisola sorrentina. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo alla crisi economica scaturita dalla pandemia di coronavirus. Nonostante molti indicatori mostrino una ripresa, resta nell'Unione Europea una situazione caratterizzata da una incertezza enorme, così avverte il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni. Intanto in Europa ci si attrezza dopo l'accordo per gli aiuti economici. Inizierà le sue attività a metà agosto la task force della Commissione Europea incaricata di coordinare le prossime fasi del recovery plan in Europa. Sarà guidata dalla vice segretaria generale della Commissione, la francese Céline Gauer, e sosterrà da un lato i paesi membri nella preparazione dei loro piani nazionali di riforma, mentre dall'altro coordinerà l'attuazione successiva del piano per la ripresa nei 27 paesi. Molto probabile che un ruolo importante lo giocherà l'ex presidente Consob Mario Nava, nominato appena 2 mesi fa a capo della Direzione Generale Sostegno alle Riforme Strutturali, incaricata proprio di valutare i progressi nazionali nei capitoli chiave su cui si concentreranno i finanziamenti del Fondo per la Ripresa. Questo mentre il commissario agli affari economici Gentiloni lancia un avviso ai naviganti. Le erogazioni del Recovery Fund inizieranno nella seconda metà del 2021, ad eccezione di un 10% che sarà anticipato con l'approvazione del piano di rilancio. Gentiloni stima che i piani dei singoli paesi non saranno approvati prima di aprile. A quel punto Bruxelles andrà sui mercati con titoli europei comuni. Insomma, il caldo consiglio che arriva da Gentiloni è di fare ricorso al MES per i fondi ritenuti più urgenti. E da parte sua la presidente della Commissione von der Leyen invita a usare i fondi comunitari anche per modernizzare l'economia e ricorda che in arrivo a breve ci saranno pure gli aiuti shore per la cassa integrazione. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24. Siamo sull'inchiesta relativa alla caserma di Piacenza, 24 ore dall'inchiesta che ha portato al sequestro di una caserma dei carabinieri e all'arresto di 6 militari per reati gravissimi. L'indagine della Procura della Repubblica di Piacenza prosegue. Oggi ci sono stati i primi interrogatori. Un fatto gravissimo e inaudito che però non intacca l'autorevolezza e la stima che i carabinieri meritano. Il ministro della Difesa Guerini torna con queste parole sulla vicenda di Piacenza, sottolinea che l'arma sta verificando cosa non ha funzionato e assicura poi che non ci sono problemi sui criteri seguiti per gli arruolamenti. Ospite di 24 Mattino, il sottosegretario alla difesa Tofalo propone invece di inasprire le pene per chi commette reati in divisa. Io sono per una linea durissima, queste persone una volta accertati i fatti dovranno perdere il lavoro, dovranno togliere, lasciare la divisa, chiedere scusa 100 volte e pagare con il carcere. Sono molto drastico e io alzerei anche le pene per chi sceglie di fare questo percorso. Dal PD i senatori Fedeli e Laus intanto tornano a chiedere l'istituzione di un'autorità garante per la protezione dei diritti umani che possa vigilare sui casi di violenze e torture subite da persone in stato di fermo come quelli finiti al centro della vicenda di Piacenza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi nel corso della puntata torneremo sugli aggiornamenti relativi all'inchiesta. Adesso una sentenza che ha confermato l'alleanza mafia-'ndrangheta nella stagione delle stragi. Sentiamo. La Corte d'Assise di Reggio Calabria ha condannato all'ergastolo il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano, detto Madre Natura, e Rocco Santo Filippone, che per la DDA è espressione della potente cosca Piromalli di Gioia Tauro. È l'esito del processo 'Ndrangheta stragista, relativo all'omicidio dei brigadieri dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo e al ferimento di altri 4 militari in 3 episodi avvenuti nel 93 e nel 94. Secondo le accuse, gli attentati si inseriscono nel quadro più ampio di una strategia stragista messa in atto dalla mafia siciliana per destabilizzare lo Stato e che coinvolgeva 'Ndrangheta, politica collusa, istituzioni e pezzi deviati dei servizi segreti. Filippone, oltre all'ergastolo, è stato condannato anche a 18 anni di reclusione per un altro capo di imputazione. Graviano, lo ricordiamo, aveva anche coinvolto in alcune dichiarazioni Silvio Berlusconi, affermando di averlo incontrato nel suo periodo di latitanza, circostanze che i legali dell'ex premier hanno smentito con forza. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. Ora il caso dell'omicidio di Serena Mollicone 19 anni fa. Ci sarà un processo per quell'omicidio di Serena, appunto, la ragazza di Arce, appena 18enne, uccisa nel giugno del 2001, 19 anni fa. Il giudice per le udienze preliminari di Cassino ha rinviato a giudizio l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, il figlio Marco, la moglie, il luogotenente e l'appuntato della stazione dei carabinieri di Arce, vicino Frosinone. I componenti della famiglia Mottola sono accusati di omicidio in concorso. E anche a Catania esplode il caso. Il prefetto ha disposto la sospensione di diritto dalla carica per 18 mesi del sindaco del capoluogo etneo, Salvo Pogliese, in applicazione della legge Severino. Questo dopo la condanna per peculato a 4 anni e 3 mesi di reclusione nell'ambito del processo sulle spese pazze all'Assemblea regionale siciliana. E tornano purtroppo a peggiorare le condizioni di Alex Zanardi, stato trasferito al San Raffaele di Milano nel pomeriggio. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio con un comunicato stampa. A fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, è stato disposto il trasferimento dello stesso, con adeguati mezzi e adeguata assistenza, presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. A firmare il comunicato Claudio Zanon, direttore sanitario dell'ospedale Valduce di Como. All'ospedale Comasco afferisce Villa Beretta, la clinica per la riabilitazione specialistica in Brianza, dove Zanardi era stato trasferito martedì. Da oltre un mese l'ex pilota era ricoverato all'ospedale di Siena. Le condizioni di Zanardi e i parametri vitali erano stati ritenuti stabili, tanto da permettere la riduzione e poi sospensione della sedazione e la conseguente possibilità del trasferimento in una struttura per la neuroriabilitazione. Oggi invece la decisione dei medici della clinica di Costa Masnaga e dell'ospedale di Como. E nel comunicato l'ultima precisazione: non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito invece della cosiddetta bomba d'acqua su Milano, sono esondati due fiumi, Seveso e Lambro, anche se è terminata in queste ore l'esondazione dei due fiumi che hanno inondato le strade di Milano a causa di un nubifragio che si è abbattuto sulla città dalle prime ore del mattino. Altri temporali sono in arrivo, forti grandinate nella zona di Milano, nei comuni della cintura nord della città, in tutta la regione, tromba d'aria nel Cremasco. E poi vedo la notizia, è ufficiale, la ministra dell'istruzione Azzolina ha firmato l'ordinanza che prevede che l'anno scolastico partirà il 14 settembre. Paura di viaggiare e incertezza economica post pandemia spingono i romani alla riscoperta della loro spiaggia, ma l'assenza del turismo straniero si fa sentire anche qui e per i ristoratori e balneari già si profila una stagione a metà. Questo è l'oggetto del reportage di Giorgio Stamatopoulos in onda su Radio 24 domenica alle 8:15. Adesso ne ascoltiamo un anticipo. Non rinuncio alle vacanze, ma non andrò all'estero. Pochi soldi quest'anno. Già si era organizzato per l'Inghilterra e invece si è rinunciato. Uno ha paura che se va in villaggio turistico rimani lì con qualcuno che ha il Covid e ne è in quarantena, quindi si rimane vicino a casa. Ostia è da sempre la spiaggia dei romani che oggi, sull'onda lunga del Covid, fatta di molte paure e poche certezze, tornano ad affollarla. Ma l'assenza del turismo straniero si fa sentire anche qui, mentre chi arriva dalla capitale e dall'Interland lo fa all'insegna del risparmio. E per ristoratori e balneari si profila una stagione a metà. Lettini giornalieri e ombrelloni vanno. Lì il calo è un po' meno del 50%. La domenica, stando a luglio, la gente lo va a cercare l'ombrellone, ringraziando Dio, perché sennò altrimenti non c'avevamo senso di stare qua. Sempre in bilico fra degrado e desiderio di riscatto, Ostia, col suo lungomare, il parco archeologico e le riserve naturali, non si rassegna a vestire il semplice ruolo di periferia dormitorio insidiata da criminalità e cementificazione. E nell'estate del coronavirus prova a guardare al futuro con ottimismo. Sai che abito Ostia da tutta la vita e ho riscoperto Ostia adesso col Covid. Lavoro a Roma e quindi in questo periodo ho comunque ricominciato a frequentarla e Ostia è meravigliosa. La pineta, il mare, fai lo smart working, alle 6:30 recuperi la vita, è una cosa meravigliosa, con una tragedia però hai cambiato la vita in positivo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per chiudere lo sport, il calcio, si conclude la 36esima partita di giornata di Serie A maschile con Milan-Atalanta, che però inizia alle 21:45, quindi lì poi ci aggiorniamo. Intanto il ministro dello sport Spadafora promette da settembre tifosi negli stadi, rispettando, ha spiegato, una serie di misure che sono allo studio in queste ore. Anche di questo ci occuperemo. Nel frattempo però occupiamoci di aggiornare chi sta viaggiando. Tono ratta come la folgore. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Come sempre tantissime notizie anche in questa ultima puntata della stagione, sempre Roberta Giordano con voi a raccontarvela, ad approfondire tra poco con gli ospiti alcuni dei fatti principali. Rassicuro le ascoltatrici e gli ascoltatori che dicono no, non è possibile, ci lasci, ma tu torni, eccetera. Certo che torno, faccio un po' di ferie, ne devo consumare un po', mi riposo anche possibilmente, poi chiaramente a fine agosto sono qua con voi puntualmente. Nel frattempo però ci sarà la versione estiva, poi ve lo ricordo anche dopo, di Effetto Notte con il collega Andrea Ferro, che però si sposta, anticipa dalle 18:30 alle 20:30. Poi ci torniamo su questo. Invece adesso soffermiamoci nuovamente sulla situazione relativa al coronavirus in Italia. Come sempre vi ho aggiornati all'inizio sugli ultimi dati, quelli appunto aggiornati dal Ministero della Salute. Riscendono da 306 a 252 nelle ultime 24 ore i nuovi contagi, calano anche per fortuna i decessi dai 10 di ieri ai 5 di oggi, a frenare soprattutto la Lombardia, dove i contagi di giornata passano da 82 a 53, mentre continuano a salire nelle ultime ore in Emilia-Romagna, che con 63 casi dopo i 55 di ieri purtroppo è, diciamo, in vetta alla classifica dei contagi, che sono piuttosto alti nelle ultime ore anche in Veneto. Vabbè, questa è un'altalena di numeri comunque prevista dal Ministero della Salute, lo aveva detto, vi ricordate, un po' di settimane fa il ministro Speranza, dopo la fine del lockdown, aveva detto sarà inevitabile che ci siano dei focolai di nuovo qua e là, ma insomma siamo più capaci ovviamente di controllarli. In effetti assistiamo ormai da diverse settimane all'emersione di nuovi focolai, cluster come vengono definiti, da nord a sud, un po' in tutta la penisola. Fra l'altro il ministro Speranza aveva avvertito anche nei giorni scorsi sul rischio di coronavirus da importazione, no? E per questo aveva emanato tempo fa, e questo è stato anche argomento di Effetto Notte, un'ordinanza che ha vietato l'ingresso da una quindicina di paesi verso l'Italia. Ora però si pone anche un problema di paesi che riguardano, che fanno parte dell'Unione Europea. In Romania e Bulgaria infatti si sono registrati negli ultimi giorni nuovi focolai di virus, e poiché ci sono diversi cittadini e cittadine che rientrano dalla Romania, tra loro per esempio badanti, braccianti eccetera, il ministro Speranza ha firmato un'altra ordinanza. Cosa prevede questa ordinanza? L'obbligo di quarantena all'arrivo in Italia per chi è stato in Romania e Bulgaria. E ne voglio parlare con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, alla quale do la bentornata. Grazie di essere qui. Grazie infinite, grazie. Grazie lei a lei. Molto brava. E lei... Spero anche che lei torni, come dicono i suoi certo, ascoltatori. Certo. E lei bisogna ringraziare Sandra Zampa, perché al di là del partito politico, di chi è a favore, di chi è contro, di chi l'apprezza o meno, è sempre veramente disponibile. Non è sempre così per tutti i politici. Comunque, sottosegretario Zampa, si tratta in questo caso, per quanto riguarda Romania e Bulgaria, per questa ordinanza, della prima volta dopo la riapertura delle frontiere di un'ordinanza che riguarda due paesi dell'Unione Europea che vengono esclusi quindi dal regime di libera circolazione, no? Come previsto in Europa dall'accordo di Schengen. Sì, purtroppo sì, non è piacevole, ma da giorni il nostro addetto diplomatico, il consigliere diplomatico del ministro che opera presso il ministero, ci informava con dispacci e puntualmente registrando in questi due paesi un aumento esponenziale dei casi e una situazione molto difficile da governare. Naturalmente sono sempre decisioni difficili da prendere, ma il ministro, quando si diciamo su questa questione del Covid, ha mantenuto sempre un orientamento estremamente rigoroso e quindi ha preso questa decisione, come lei sa e come ha giustamente detto, dal momento stesso in cui l'ordinanza è stata emanata e fino al 31 di luglio, ma noi sappiamo che il 31 luglio è la scadenza di molte cose, quindi vedremo cosa succede, se verranno diciamo tutte le ordinanze riviste o alcune decadono, bisognerà anche fare diciamo una certa pulizia. Ecco, questo vale da subito. Da subito significa che oltre all'isolamento fiduciario, che ormai tutti sanno cosa vuole dire, cioè la quarantena, c'è anche la sorveglianza sanitaria, che vuole dire che al momento del tuo arrivo devi informare le autorità sanitarie, quindi il tuo distretto, la tua ASLA o l'ASLA del territorio nella quale tu vivi o risiedi, del tuo arrivo, e ovviamente il medico poi ha il compito di tenerti, di prenderti in carico, di avere cura di te, quindi di telefonarti, di verificare tutti i giorni lo stato, come insomma, vanno le cose. Sì. Sottosegretario Zampa, tra l'altro mi sembra che questa ordinanza sia partita in particolare dalla situazione del Lazio, dove si sta monitorando l'evoluzione di casi di coronavirus, appunto di importazione dalla Romania proprio, tra cui tre persone mi pare che siano. Beh, tra cui anche due badanti. Quando no? C'era il Bangladesh, sì, credo. Sì, sì, sì. Ecco. Sì. È la stessa identica cosa, ovviamente. Solo che qui arrivano con gli autobus, rientrano con. Sì, è chiaro, però dalle frontiere devono passare, in questo caso comunque dai confini, non è che un autobus può passare senza essere visto. A questo punto però, siccome le persone che sono arrivate sono già risultate positive, ma soprattutto perché a noi da quei paesi sono arrivate informazioni molto preoccupanti, ovviamente è sembrato opportuno, anzi doveroso, prendere questa decisione. Naturalmente questo non vale per le persone che per esempio vanno in Romania o in Bulgaria e hanno una permanenza complessiva di un giorno e mezzo, neanche due giorni, nel senso che se tu hai una missione di lavoro, vai la mattina e rientri la mattina dopo, questa cosa non scatta per te che vai là, e in questo caso neanche se uno entra e esce immediatamente. Quindi se lo fa velocemente. Però mi sembra che si stia valutando anche di effettuare dei test sierologici a chi arriva dal paese. Beh, sicuramente. Io credo che il fatto anche che in alcune regioni stiano aumentando è perché i test stanno partendo a tappeto, perché ormai si stanno affinando i metodi, perché vanno molto più veloci anche i risultati. Ormai si riesce ad avere il risultato davvero rapidissimamente rispetto a quando siamo partiti. Perciò il test resta comunque una cosa straordinariamente importante. Sottosegretaria Zampa, però c'è chi, a proposito di virus da importazione, vi lancia questa accusa. La mancanza di una politica di flussi e dell'immigrazione controllata ci sta mettendo nuovamente tutti in pericolo. Siccome stiamo uscendo da questa situazione di emergenza, Siccome stiamo uscendo da questa situazione di emergenza e non sapete come mantenere la poltrona, allora importate il Covid. Questa è Elena Murelli, oggi alla Camera della Lega. Ieri alla Camera. Che dice che per tenervi le poltrone il governo, l'accusa al governo, importate il Covid con i migranti. Allora, guardi, io ero lì e lei sa in quale circostanza è stato pronunciato. Questa era una dichiarazione di voto per la sull'istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. Del coronavirus, un provvedimento sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari e avveniva in un clima, diciamo, di grande serenità, comunque unità. Si voleva riconoscere in un gesto collettivo una cosa che credo faccia parte dei valori di tutti quanti stanno in Parlamento, rappresentano il popolo italiano. Quindi personalmente le confesso di aver provato una grande sofferenza nel sentire queste parole. Aggiungo però a questo, invece vado nel merito della sua domanda e nel merito le dico esattamente il contrario. Prima di tutto i numeri dei migranti sono numeri piccolissimi, ma soprattutto quello che conta è avere la situazione sotto controllo. Quello che noi stiamo facendo è testare, mettere in quarantena tutti coloro che arrivano da situazioni rischiose. Tutti i migranti che sbarcano in questo momento sono controllati e avere controllo, governo delle situazioni è l'unica vera garanzia che si può dare alla salute, non solo individuale, ma in questo caso certamente alla salute collettiva. Cioè lasciare che invece le cose avvengano di nascosto, avvengano abbandonando le persone per strada e marginalizzandole sempre di più significa creare delle bombe virali in giro. Però a questo proposito, sottosegretario Zappa, c'è Mario, per esempio, sulla pagina di Effetto Notte, che dice, Romania, Bulgaria, la quarantena. Dice, ma chi obbligherà la quarantena agli immigrati in fuga dai centri di accoglienza? Siccome si sente in questi giorni. Sono già obbligati. In realtà quelli sono scappati, ma vanno ripresi, evidentemente. Io credo che sia giusto quello che dice l'ascoltatore. Non devono avvenire queste cose. So che il Ministero dell'Interno stringerà da questo punto di vista le maglie, è evidente che queste sono persone in questo momento che vengono cercate e verranno riportate. Naturalmente è esattamente quello che sto dicendo, cioè l'importante è che tu in realtà mantieni il governo delle cose. Marginalizzarli e lasciare che vadano per strada o che le persone siano fuori controllo, soprattutto tutti i marginali. Adesso lei ha toccato il tema dei migranti perché diciamo è una bandiera politica. Ma lei pensi ai senza fissa dimora, pensi alle persone che sono in una condizione di estrema povertà, fragilità e che sfuggono ai controlli sanitari in tutti i modi. Ecco, per quelle stiamo tra l'altro preparando delle linee guida, in carico diciamo me lo sono preso io con l'Istituto Nazionale per la Migrazione e le Povertà, perché noi pensiamo che appunto la salute collettiva si tutela tutelando la salute di ogni individuo in qualunque condizione fisica, di residenza, economica, finanziaria o sociale questa persona sia. In questo momento conta più di qualunque altra cosa questo aspetto, e cioè che tu sai chi è quella persona, la devi raggiungere e devi fare in modo che la salute di quella persona venga tutelata se vuoi tutelare quella degli altri. Io credo che peraltro il coronavirus ci abbia dimostrato esattamente questo, che la salute di tutti noi dipende dalla salute di uno. Addirittura diciamo noi oggi parliamo di una pandemia che ha fermato il mondo intero perché in uno sconosciuto angolo di un mercato cinese una persona si è infettata attraverso un animale. Quindi una persona ha fermato il mondo. Sembra incredibile da Eppure dire, ma è così successo. È. Sottosegretario Zampa, invece per quanto riguarda la eventuale proroga dello stato di emergenza che aveva annunciato giorni fa il Presidente del Consiglio Conte, poi doveva essere discussa nel Consiglio dei Ministri di questi giorni, che ne è per ora? Lei ha qualche anticipazione da darci? So che si sta discutendo e so che Il ministro Speranza desidera che questo tema venga discusso dai gruppi parlamentari. Ci sono alcuni pro e ci sono alcuni contro. Il dibattito è partito, secondo me, molto male. È partito col piede sbagliato. Il piede sbagliato è la piccola indiscrezione che poi diventa un sassolino che è diventato un enorme masso. Mm. Prima di tutto noi non sappiamo cosa ci aspetta a settembre. In secondo luogo, a tutti coloro che ci hanno detto: ma voi in questo modo danneggiate il paese perché date all'estero un'immagine, l'emergenza chiedetela se dovesse riprendere. Io voglio solo fare una domanda a lei, ma anche a chi ci ascolta. Se noi tra un mese o due mesi fossimo costretti a chiedere di nuovo e a proclamare di nuovo lo stato di emergenza, secondo lei in termini di immagine all'estero, questo quanto enormemente più ci danneggerebbe di un proseguimento che è più di carattere amministrativo oggi che altro? Faccio una seconda domanda. Se avessimo chiesto lo stato di emergenza quando abbiamo proclamato per la prima volta lo stato di emergenza nazionale e l'avessimo chiesto con durata fino al 30 di dicembre, salvo farlo decadere nel caso che avessimo risolto il problema, qualcuno si sarebbe scandalizzato di questo? Io non credo. Noi stiamo parlando di un provvedimento che eventualmente dà la possibilità al governo non solo di fare interventi tempestivi se ci fossero focolai, zone rosse, ma quelle, come noto, possono essere decise anche dai presidenti di regione e persino dal sindaco, ma piuttosto anche semplicemente le deroghe che stiamo facendo da molti punti di vista. Si è discusso moltissimo dell'acquisto dei banchi, che è l'esempio più facile per tornare a scuola, ma anche tutte le messe in sicurezza che le scuole necessiteranno di qui al 14 di settembre, le decisioni che dovremo prendere perché si possa votare, quindi la messa in sicurezza dei luoghi. Per fare queste cose velocemente, purtroppo, per come il nostro paese funziona, bisogna avere uno stato di deroga da regole molto pesanti, non è un caso che stiamo discutendo di semplificazione. Aggiungo a questo che comunque noi sappiamo che potrebbe, speriamo di no, non è probabile, ma è possibile che accada, che la piega, diciamo, dell'epidemia torni ad avere un altro andamento più negativo. In questo caso noi saremmo coperti per ancora qualche periodo. Detto questo, però, siccome davvero si tratta di un provvedimento che ha un valore e a cui è stato anche attribuito un valore, anche perché oggettivamente ne può avere anche altre di letture, non c'è solo quello che ho dato io in questo momento, io penso che sia giusto che sia il Parlamento a discutere, che questa discussione debba essere guidata dal titolare del Dicastero della Salute. Mi pare che rispetto a Roberto Speranza sia abbastanza difficile immaginare che sia persona che tende a mettersi sotto i piedi i diritti delle persone, i diritti della democrazia e, diciamo, l'esigenza della democrazia. Sì. Quindi penso che sia giusto che il dibattito vada a sottoposto finire al Parlamento. Chiarissimo. Per chiudere, sottosegretaria Zampa, visto che ci lasciamo per quest'estate, vuole fare anche a lei un augurio o una raccomandazione vuole fare per questo proseguo di estate? Sì, alle persone io penso davvero che dobbiamo dire che non è finita questa vicenda. In questo momento si stanno ammalando più giovani, diciamo, si sta abbassando l'età delle persone che risultano contagiate. Questa è la conferma che alcuni comportamenti così molto disinvolti producono purtroppo una diffusione del contagio. Le regole che abbiamo dato sono regole molto facili da seguire e credo che lavarsi molto spesso le mani, non dimenticarsi questo, non stare in assembramenti in alcun luogo, tantomeno al chiuso, e comunque certamente indossare la mascherina quando si parla con gli altri o esigere che chi parla con te anche metta la mascherina, siano cose che si possono fare senza una grande sforzo, quindi senza grande impegno, vacanze quindi in sicurezza e anche scaricare l'immuni, quasi è molto più utile di quanto le persone non abbiano ancora potuto comprendere, anche a causa, appunto, anche qui di forse scarsa comunicazione, di un dibattito, diciamo, molto condizionato da altre ragioni che poco hanno a che fare con l'immune. Quindi cerchiamo di vivere una estate il più possibile tranquilla, di viverla ma con senso di responsabilità. E quindi anche a lei, sottosegretaria Sandra Zampa, una estate il più serena possibile. Grazie molte. Grazie. Grazie. E ci risentiamo a settembre. Grazie. Allora, qui ci fermiamo come al solito per una breve pausa di riflessione. Ringrazio i tanti messaggi che stanno arrivando di affetto, di buone vacanze che mi augurate, eccetera. Ci risentiamo ancora per un po' e tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete sempre al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano per l'ultima puntata di questa stagione, poi ci risentiamo a fine agosto e vi ringrazio per tutti i vostri messaggi, adesso non vi nomino tutti, tra pagina Facebook di Effetto Notte e WhatsApp al 349-238-6666, degli auguri che state facendo, di buone vacanze, vi ringrazio, che mi ringrazia di cuore di questo periodo difficile in cui siamo stati insieme. Vi ringrazio, poi li leggerò tutti dopo. Adesso continuiamo a occuparci di alcuni dei fatti principali e torniamo sugli aggiornamenti relativi a questa clamorosa inchiesta sulla caserma dei carabinieri Levante di Piacenza. Oggi ci sono stati i primi interrogatori. Vi ricordo che ci sono 6 carabinieri che sono stati arrestati con accuse gravissime che vanno dal traffico e spaccio di sostanze stupefacenti all'estorsione, all'arresto illegale, alla tortura, alle lesioni personali. E la caserma, dicevamo anche, che è stata sequestrata ed è la prima volta in Italia che una caserma dei carabinieri viene sequestrata. Il comando generale dei carabinieri ha nominato il sostituto del comandante della compagnia, che è stato sospeso in quanto indagato. La procura, ieri anche la procura militare di Verona, ha aperto un fascicolo sui 6 carabinieri. Il ministro della difesa Guerini ha annunciato un'inchiesta interna all'arma. E fra l'altro, e saluto la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, eccoci. C'è stato un azzeramento dei vertici locali dell'arma di Piacenza anche? Eh sì, diciamo che l'arma non ha voluto aspettare eventuali ulteriori sviluppi dell'inchiesta e ha deciso di azzerare l'intera catena di controllo e di comando di Piacenza, a prescindere, diciamo, da quello che eventualmente potesse ulteriormente svelare l'indagine di Piacenza, e questo anche per cercare di ricostruire, così hanno spiegato al comando generale dell'arma, un rapporto di fiducia con i cittadini. Perché, come dicevamo già ieri, qual è adesso la seconda e più delicata ancora fase dell'inchiesta? Quella di ricostruire tutta la catena del comando che ha per mesi, se non per anni, visto che l'indagine è partita, riguarda fatti che del 2017 anche, coperto le scorribande dei ragazzi della Levante, così come erano chiamati. Cioè, in qualche modo, l'ipotesi è che ci possano essere state una serie di capi di questi, del maggiore, del maresciallo Montella e degli altri ragazzi che possono... C'è un collegamento, evidentemente a un certo punto si ferma il collegamento con Raffaella Calandra, è successo anche ieri, comunque ci stava appunto dando degli aggiornamenti su questa inchiesta, dicendo che la seconda fase più delicata anche di questa indagine è quella poi di risalire un po' per volta tutta la catena di comando. Evidentemente è poco credibile che, visto che andavano avanti da 3 anni questi carabinieri, che sono stati definiti un'associazione a delinquere, e che nessuno sopra, insomma, sapesse, giusto Raffaella? Stavi parlando appunto della catena di comando. Sì. È così, Roberto, dicevo che appunto il tema è che capire quanti e chi abbia per un periodo di tempo chiuso un occhio rispetto ai reati che vengono contestati ai carabinieri, perché costoro portavano tanti risultati, cioè tanti arresti soprattutto per droga, numeri che aiutano nella progressione della carriera. E come questi arresti venivano effettuati lo ha raccontato indirettamente anche uno stesso informatore di questi carabinieri, un magrebino, il cui audio è stato registrato da un maggiore dei carabinieri, Rocco Papaleo, che ha fatto partire anche gran parte di questa inchiesta, che, scavalcando la catena di comando, è andato direttamente in procura con quest'audio. Questo magrebino ha raccontato di essere stato uno degli informatori dei carabinieri e che riceveva il 10% di droga e di soldi sequestrati. entrati in cambio di soffiate che dovevano appunto aiutare a, a portare ad arresti nel mondo della droga, tant'è vero che proprio 2 anni fa alcuni carabinieri della caserma Levanti avevano proprio ricevuto un encomio per gli arresti e per le operazioni antidroga. Dunque diventa sempre più complessa e sempre più delicata questa inchiesta, tanto è vero che, come ricordavi, c'è anche un'indagine interna all'Arma e ora anche il comando interregionale, quello di Padova, si occuperà, diciamo, di ricostruire anche proprio tutto quello che è avvenuto intorno alla catena di comando e quindi prevedendo e, insomma, cercando di prevenire eventuali anche situazioni diciamo di ulteriore imbarazzo, l'Arma ha deciso di azzerare tutti i vertici di comando, quindi ha trasferito i 3 comandanti di Piacenza, anche se non sono affatto indagati proprio per un discorso, una questione di opportunità, diciamo. Raffaella, esatto, tra l'altro sentiamo cosa ha detto oggi Angelo Tofalo, sottosegretario alla difesa, da noi a 24 mattino, ha detto che bisogna inasprire le pene per chi delinque in divisa. Durissima, cioè queste persone non dovranno, una volta accertati i fatti, non dovranno, dovranno perdere il lavoro, dovranno togliere, lasciare la divisa, chiedere scusa 100 volte e pagare con il carcere se, ecco, i reati poi saranno accertati. Su questo io sono molto drastico e io alzerei anche le pene, cioè lo dico molto sinceramente, per chi sceglie di fare questo percorso, che non è un percorso obbligatorio, un percorso, servire il paese è il più grande dei privilegi. Chi fa un percorso del genere deve avere dei valori di vita ben più solidi di altri. Arrivare poi a queste deviazioni, degenerazioni, fa molto male, ecco, per cui io alzerei anche le pene. Quindi molto drastico. Per chiudere, Raffaella, perché siamo un po' in ritardo, ricordo che poi è arrivata anche tra l'altro in serata il rinvio a giudizio di tutti gli indagati del caso Mollicone, l'omicidio di Serena Mollicone 19 anni fa, lei era una 18enne, il delitto avvenne ad Arce, provincia di Frosinone, e lei era il 1 giugno 2001, pare fosse entrata in questa caserma di Arce per fare una denuncia, non ne è più uscita, poi è stata ritrovata morta in un boschetto lì vicino, insomma c'è stata un'infinità anche qui di depistaggi, questa lunga storia di misteri. Adesso vanno a processo 3 carabinieri, 3 carabinieri, il figlio e la moglie di uno dei militari. La prima udienza ci sarà l'11 gennaio, insomma vedremo come va questa lunga storia giudiziaria. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao cara Raffaella. Ciao. Buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Strade che si lasciano guidare forte, poche parole, piogge calde, buio, tergi cristalli e curve da drizzare, strade che si lasciano dimenticare. E strade anche che saranno piuttosto intasate questa estate, che inizia soprattutto diciamo ad agosto, vero Andrea Ferro? Non solo in Liguria, ma insomma ci sono varie date che sono da tenere d'occhio, eh? Ciao, sì, caro Andrea. Buonasera Roberta. Sì, allora la giornata da bollino nero che appiccichiamo sulle strade arroventate sarà l'8 agosto, sabato 8 agosto. Questo dice Viabilità Italia, che il centro di coordinamento che fa capo alla Polizia Stradale. Oggi sono state, diciamo così, un po' diramate le previsioni del traffico per le prossime settimane. Bollino nero, dicevo, sabato 8 agosto, poi bollino rosso già in questo fine settimana e poi nel prossimo. Quindi sono attesi spostamenti abbastanza affollati, per così dire, lungo le strade e le autostrade. È un segnale dell'Italia che va in ferie in quest'estate molto particolare. Ci saranno meno auto di stranieri, ma ci saranno più italiani che faranno le vacanze. È un segnale in qualche modo confortante in questo periodo denso di incertezze. Poi c'è la situazione ligure, l'abbiamo sentito nell'aggiornamento della viabilità. I lavori nelle gallerie proseguono, proseguiranno ancora per qualche giorno, con chiusure notturne, chiusure di alcune carreggiate. Appunto, le chiusure notturne riguardano alcuni tratti e riguardano invece anche in ore diurne anche i caselli, e poi chiaramente una situazione particolarmente difficile nelle prossime ore, visto che entriamo appunto in un weekend da bollino rosso. Poi i cantieri dovrebbero essere ulteriormente smantellati, visto che già ora ce ne sono di meno rispetto alle scorse settimane, ed entro la fine di luglio meglio, speriamo, questa lunga storia di disagi dovrebbe terminare. Attenuarsi almeno. E mi raccomando, tutti con prudenza, visto che ci si muove tutti insieme in giorni particolari, svegli, allerta e prudenti e responsabili. Andrea, tra l'altro, a proposito di volante, io passerò il volante proprio ad Andrea Ferro da lunedì, che di effetto notte estate, la versione estiva, però comincerai alle 18:30, no? Allora, fai due ore. 18:30, diciamo che il supplente è che darle riposo alla maestra titolare. È troppo buono. Diciamo così, io d'altronde spero di tenere alto il brand della trasmissione. Ci sono milioni e milioni di ascoltatrici e ascoltatori in tua responsabilità che passeranno quindi a quella fascia, a partire dalle 18:30. Sì, è anche una fascia un po' impegnativa, come ben stai, per Radio 24, 18:30, 20:30. Sarà il racconto della giornata, il racconto di cronaca, di attualità, di sport, di cultura, di spettacolo, insomma sarà il punto del tardo pomeriggio, inizio sera, di quello che è accaduto in Italia e nel mondo in quest'estate estremamente particolare, estate che chiaramente darà molti spunti di curiosità, di conoscenza, insomma cercheremo di raccontarla come tu fai abilmente da anni, diciamo, in una fascia un po' più tarda, infatti effetto notte estate. Diciamo che per effetto del palinsesto, la notte a Radio 24, l'estate inizia un po' prima. Andrea Ferro, quindi non perdetelo da lunedì con effetto notte estate. Buon lavoro quindi, Andrea. Ciao caro. Buone ferie allora. Grazie, un abbraccio, buon lavoro a te. Ora invece do la parola a Giovanni Capuano che ci aggiorna sulla partita di Serie A maschile in corso, iniziata da poco più di 5 minuti. Milan-Atalanta, come sta andando Giovanni? Beh, sta andando che Milan e Atalanta sono ferme sullo 0-0, sta giocando in questi primi 5 minuti più l'Atalanta del Milan. Atalanta che è scesa a San Siro questa sera da seconda della classifica, quindi teoricamente ancora ampiamente in corsa per lo scudetto, anche se poi nella realtà lo scudetto, al di là della sconfitta di Udine, è saldamente nelle mani della Juventus. Atalanta però che ha iniziato la gara col piglio giusto, si è già resa molto pericolosa in un'occasione dopo 2 minuti con un destro di Daron dal limite dell'area di rigore, palla di poco alta sulla traversa, così come pochi istanti fa alto sulla traversa un colpo di testa di Duvan Zapata sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dal Papu Gomez. Diciamo che si è visto poco Milan in questi primi 5 minuti, molta Atalanta, ma siamo soltanto all'inizio di una partita e abbiamo visto in quest'estate dentro le partite ci sono tante mini partite fatte da cali di condizione fisica, stanchezza, episodi, e quindi ci siamo abituati a considerare che queste sono gare che difficilmente tengono lo stesso copione per tutti i 90 minuti e molto probabilmente sarà così anche in per questo caso. Milan-Atalanta. Giovanni, invece un'altra notizia importante di oggi è che il ministro dello sport Spadafora ha annunciato che a settembre, se tutto va bene, i tifosi possono tornare negli stadi? Sì, diciamo che ha annunciato che anche il governo sta lavorando concretamente a questo, che è un obiettivo da almeno un mese della Federcalcio. Certo, con tutte le precauzioni necessarie. Certamente, da qualche settimana sta lavorando a un protocollo di sicurezza. Allora noi dobbiamo intanto essere chiari. Anche l'apertura del ministro Spadafora oggi ha dei paletti. Il primo paletto è che la curva epidemiologica deve in qualche modo consentirlo. Certo. Perché se da qui a settembre si rialzeranno in maniera considerevole, ma questo vale per tutte le attività di questo paese, i numeri dei contagi, è chiaro che non sarà possibile immaginare di riaprire gli stadi. Il secondo paletto è che la capienza sarà ridotta, diciamo che si parla di una forchetta tra il 30 e il 50% degli stadi, ci saranno delle misure di sicurezza. Il problema dentro gli stadi non è tanto il fatto che ci si debba sedere a uno o due seggiolini di distanza l'uno dall'altro, perché gli stadi sono degli spazi ampi all'aperto e quindi è intuitivo che ci sono attività che facciamo tutti i giorni che sono molto più pericolose da questo punto di vista che andare a vedere una partita. Il problema è il momento dell'afflusso, il momento del deflusso di 20-30.000 persone che si concentrano nello stesso spazio, e questo è quello che stanno cercando di studiare con dei protocolli di sicurezza. C'è un posto dove questa sera si è tornati a giocare con il pubblico negli stadi, e curiosamente è la Francia, che è stato tra i grandi campionati l'unico ad alzare bandiera bianca già addirittura ad aprile, tra mille polemiche. La Ligue 1 è l'unico campionato che si è fermato definitivamente in per Francia. Covid, gli altri campionati principali, esatto, in Francia, gli altri campionati principali, a partire dalla Serie A, sono ripartiti. Questa sera è in corso la finale di Coppa di Francia fra Paris Saint-Germain e Saint-Étienne. Si gioca allo Stade de France, che è lo stadio di Parigi, quello dove di solito si scende in campo la nazionale francese. È uno stadio da 80.000 posti. Ebbene, c'era l'accesso per 5.000 persone, compresi giornalisti e invitati della federazione. sono tutti distanziati, diciamo, in maniera corretta, anche se c'è stata una grande polemica perché gli ultra delle due squadre non hanno voluto entrare perché protestavano con limiti, secondo loro, troppo invasivi. Se ti può interessare, curiosità nella curiosità, il Saint-Étienne, uno dei due club, per rispettare le volontà dei propri ultra, ha comprato di tasca propria i 600 biglietti che erano destinati alla curva degli ultra e non li ha più rimessi in vendita, e quindi in un certo senso dando ragione alla propria frangia di tifosi, diciamo, più calda, più estremista. Però la notizia è che per la prima volta dal Covid c'è uno stadio con dei tifosi in uno dei presenti paesi guida del calcio europeo, in Francia. Grazie Giovanni Capuano, ciao caro Giovanni. L'estate addosso, un anno è già passato. E già, a parte che mi chiedo e chiedo a Paolo Corazzoni di Trebi Meteo se siamo più in estate o in autunno, a giudicare da Milano, ma anche in Versilia è quello che è successo. Allora, è un'estate un po' particolare, perché lo ammetto anch'io, però guarda, il peggio è passato, nel senso che la perturbazione di oggi che ne ha fatti di tutti i colori, lo ammetto, in realtà si sta già allontanando, quindi per il weekend prevediamo tempo bello in tutta Italia, un po' di variabilità domani al sud, ma tra l'altro anche con temperature nel weekend piacevoli da nord a sud. E per un po' non sono attese grandi perturbazioni, ma ti dirò di più: agosto, a mio parere, ma secondo insomma gli ultimi aggiornamenti, brutto tempo non ti conosco. Ad agosto brutto tempo non ti conosco. Brava, andrà bene, agosto andrà bene, garantiamo noi. Okay? Se garantisce Paolo Corazzon, nel caso prendetevela con lui, giusto Paolo? Figuriamoci, ecco. ma cosa. Quindi un buon agosto garantito, meno male che sia un'estate almeno questa serena, almeno dal punto di vista meteorologico. Grazie al nostro Paolo Corazzoni di Trevi Meteo. Un abbraccio e buona estate. Buon tempo a te. Ciao caro Paolo. Aggiorniamo le 22. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it.